Thank you.

tormenti, conti contenti sì, volvi in loro. Tutto sorridi me, vivi come in torno, più lieto giorno, ritorni da me. Porto il suono. Yeah. di questi cenci mi coperse e scorta mi fu sin al primo villaggio dove entrambi piangendo ci lasciammo amico mio e disse e dir non mi poteva addio Thank you. cerco, e cede mio periglio. E cerco il mio periglio, non ha non ve più speme, e cerco il mio periglio, e cerco il mio periglio. Sono un eterno esilio, o Dio mi può lasciare. Sono un eterno esilio, eterno esilio, mi può lasciare. Vicino, tremendo, destino, mi sento gelare. cielo tremendo, destino tremendo, destino mi sento girare. E fiera! Mi sento, mi sento! Che manda la sorte, che vengo, che vengo, che vengo, che vengo, che vengo, che vengo! Sola soletta ti troverò, sì sì sì sì ti troverò. Quel caro viso, quell'ardor di gioia ti darò. E poi che in estasi di dolce amore ti vedo stendere la mano al cuore, rivigorito, rigiovanito, ringalluzzito, ribaldazzito, ribaldazzito, trionferò. Ad un conciubilo io cadermo, il giubilo io cadermo, il giubilo io cadermo, io già vengo, io già vengo. Sì, sì, Ninetta, sola, soletta ti troverò, sì, sì, sì, sì, ti troverò. Quel caro viso, brillando rigo, io ti farò. Rinvigorito, ringiovanito, trionferò, trionferò. sera. Rincallo zito, rimbaldan zito, triomferà, triomferà. A tutto il giubilo, a tutto il giubilo, a tutto il giubilo, io già vengo, sì, tutto, tutto il giubilo, io già vengo, io già vengo. A tutto il giubilo, a tutto il giubilo, a tutto il giubilo, io già vengo, sì, tutto, tutto il giubilo, io già vengo, io già vengo. A tutto il giubilo, io già vengo. A tutto il giubilo, io già vengo, io già vengo, io già vengo, io già vengo. Fanciulla, vi san servo. Ditemi, chi è quell'uomo? Un povero viandante che mi chiede a soccorso. Perché non se ne va? Cacciatelo. Vedete, è tanto stanco che già s'è addormentato. Can che dorme non dà molestia. Ah, se sapeste, oh cara, da quanto tempo io cerco di ritrovarvi sola. Andate, andate, non vi fate burlare. Ah, mia Ninetta, perché così ritrosa? Rispondi, anima mia, questo piego pressante è a voi diretto. Ah, chi l'ha recato? Un mirlo, Giorgio, dammi una sedia, vediamo che cos'è, vattene pure. Oh, caro padre, fuoriste, io tremo, intanto che legge te fuggite. E come, oh figlia, sono senza danari. Oh cielo, ed io non ho più nulla. Ebbene, prendi questa posata, unico avanzo di quanto possedea, e tu procura di venderla dentr'oggi, ma in segreto. Là dietro al colle io vidi un gran castagno a cui la lunga età de scavato ha il seme. E ne sapengo. Qui vi c'era il denaro che potrai ritrarne. Oh padre, farò di tutto, andate. Figlia mia, abbracciami. Ninetta! Giusto cielo! Galantuomo, restate! Io tremo! Io gelo, traetevi in disparte! Son questi, almen suppongo, i contrassegni d'un disertore. Fernando par che dica. Fernando! Reo destino! Ma il resto senza occhiali è impossibile a leggere. Mia cara, fate il piacer, leggete voi. Gran Dio, un uccidio mi salva, e padre mio. M'affretto di mandarvi i contrassegni d'un mio soldato, condannato a morte e fuggito puror dalle ritorte. E chiamasi? Sofia! Fernando! Succedetemi, o dei, qualche pietoso inganno! Oh, come il duolo la rende ancora più bella! Ehi, chiamasi Fernando Vinella. Continuate. Oddio, se ne ecco ancora, tutto è perduto. Da 48 anni, stato ora 5 piedi. Ebbene, che avete? Non sapete più leggere? Infelice. E una mano diabolica. Ah, se avessi gli occhiali. Permettete, e c'è il mistero. 25 anni, statura 5 piedi 11 pollici. Peccato. Andate avanti. Capelli biondi, occhi neri, ampia fronte e tondo il viso. Cospetto, egli deve essere un narciso. E tondo il viso. E poi? Divisa gialla con mostre rosse, stivaletti bianchi. Se mai costui passasse sul vostro territorio, addirittura fatelo imprigionare. Sarà mia cura! Vediam se mai per caso. Olà, buon uomo! Signor! Alzatevi! Calatevi il cappello! Io muoio! Venticinque anni, è vero! Capei biondi, occhi neri, ampia fronte e tondo il viso. No, no, un si vago a donne, minor ravviso. Signora, arrepite! Udite! fiamme, le mie fiamme, i voti miei. Ma se Barbara non sei, fammi a parte del tuo cor. Ah, se Barbara non sei, fammi a parte del tuo cor, fammi a parte, fammi a parte, fammi a parte del tuo cor. Ah, se Barbara non sei, fammi a parte del tuo cor, fammi a parte del tuo cor, fammi a parte, fammi a parte del tuo cor. mi sbaglio del giro e fremo a questo passo estremo mi sento scoppiar non so quel che fare mi sento sbaglio del giro e fremo a questo passo estremo mi sento scoppiar non so quel che fare mi sento sbaglio del giro e fremo in tutto e sempre del mio salvadanaio ti ringrazio, ma lasciami, tu sai che tante cose ho a fare. Ed io per bacco ne ho da fare altre tante e son già stracco. Andiamo tosto a deporre entro il castagno questo denaro. Se potessi ancora rivederti, oh mio padre. Ah, eccomi, oh miei signori, quel giannetto che si veda d'onore. Bene, allegro, io lessi nei giornali più volte il vostro nome, si giovine e si prove. Degno ancor non son di tanta lode. Bravo, che bel fare! E 9, 10, 11 stordita, ecco qui manca ora un cucchiaio. Come? Sì, un cucchiaio, conta pure tu stesso. E che ne dite, oggi manca un cucchiaio, l'altro giorno si perse una forchetta. Ah, questo è troppo! È giusto il vostro sdegno. Qui ci sono dei ladri, esaminiamo, processiamo. Giorgio! Io non voglio processi in casa mia. Ninetta! È vero, uno adesso ne manca. Non credete, tanti c'erano tutti. E via, non piangere, lo troveremo. Pippo, corri a vedere se mai là sotto al pergolato sia caduto un cucchiaio. Io ci scommetto che non si troverà. Non dubitate, lo troveremo noi. Voglio che almeno tremi l'indegna. Carta e calamaglio. Vi servo solo un momento. Vi ripeto che io non voglio processi. E taci, sciocco, l'innocente è sicuro. E se il reo giova a scoprirlo e castigarlo. O cielo, per sì piccola cosa. Eppur la legge in questo è assai severa ed i ladri domestici condanna alla morte. Alla morte! E sopra, e sotto, ho cercato e frugato, ma nulla ho ritrovato. Come infelice! Dunque c'è furto! Io non so niente! Anch'io sono innocente! Ora si vedrà! Insomma, vi scongiuro, lasciate, desistete! Non posso! Ma... Silenzio! E voi, scrivete! Come, come? ora intendo fuori fantella che rincone la tua madre, che rincone la tua madre. Ma me, alle mie squadre lo saranno cara mia, gelosa quanto lo saranno cara mia. Ma me, alle mie squadre lo saranno cara mia, gelosa quanto lo saranno cara. Nulla, nulla, questa semplice fanciulla ne vuol conti cornellar. Non resisto io non resisto io. Ma che dirai questo, mio signora? E tu mentisci, Resto, resto, resto, scrivete. Sacco, e da qual tipo? Perciò che giancia frusca, reca lui pur orme in me. Per certe giancia fruscole, cioè... Parla, non posso. Caduta sei nel fosso. Tacete! Scopri il vero. Posso? Rispondi. Tu tremi, ti confondi. Io no, signora. Io spero. Inutile speranza, rimedio non avendo. Non rimedio non te. Questa circostanza che mai sarà da me mi porta fuori di me. Io questa circostanza che mai sarà di me. A questa circostanza che mai sarà di me. A questa circostanza che mai sarà di me. A questa circostanza che mai sarà di me. Si chiami Santo. Sei rea, Oh. respirare, per godere almeno un po' di luce. Ma quanto mi saprei. Vedremo, procureremo. Chi va là? Apritemi. Voce. Che volete? Voi qui, signor Giannetto. Giannetto! Questo giuro, apritemi. Impossibile. Oh, mio benefattore. E chi potrebbe resister mai? Restate, infine. Male c'è, signore, entrate. Oh, troppe grazie, cara. Ed è pur vero, ah, dunque ancora tu non m'hai del tutto abbandonata. Ah, mia Ninetta, tu sei perseguitata. Il podestà crudele, la tua sentenza affretta. Tu conosci il rigor delle leggi, ma se non parli, se il tuo fatale arcano nasconde gli ostili, io tremo, forse in questo giorno stesso, o giorno orrendo. Condannata sarò, non più ti intendo. Tu

la prigioniera. No, non fia mai vero che a tollerar io abbia sprezzi e rifiuti. Andate all'arte. Or su, mia povera Ninetta, t'accosta, a te mi guida tenerezza e pietà, uno rammento i tuoi torti con me. Vorrei salvarti, ma come mai, se tutto rea ti condanna? Io rea, e crederlo potete? Ah sì, purtroppo. Tutto è vero, congiuro, donna mia, ma lo sanno gli dei, rea non son io. Ebbene, io spero ancora. Tutto tu puoi, amabile Ninetta, aspettarti da me. Sì, non temere. Voglio quest'oggi stesso toglierti di prigione. Oh, mio signore, se non mi provvedete che il pelo mi sarà reso l'onore e non ti amo chiave trovi, sciolta ritornerò ad ogni sospetto. Voglio qui rimanere. Te lo prometto. Che l'orgoglio ti cadrà, ma che in te udai la sentenza per non chiederai, ma in padre chiederai, ma tardi sarà. Va! Ma in padre chiederai, ma tardi sarà. In odio e furore, cangiato l'amore, pietà del mio petto più luogo non ha. Pietà del mio petto più luogo non ha. Ulisse, Ulisse, ti seguo, ti seguo. Ulisse, Ulisse, ti seguo, ti seguo. E questo l'avviso. Andiamo, ti seguo. E questo l'avviso. Ti seguo, ti seguo. E bene. Non ti inciso. Andiamo, ti seguo. E bene. Accetto anche io l'offerta tua. Vi sfido, debbo, nessun più mi trattiene, eppure un gran piacere il far del bene. Non sarà più meno questo ormai. Ebbene, che fa? figlia? Sì, adesso. Come? Escer non può. Seguite. Innanzi al tribunale, forse in questo momento, è giudicata. Eterni re. Thank you. è condannata. O cielo, e tu lo soffri. Zitto, abbi prudenza. Venga la rea. Stendete la sentenza. Che sperare nel ciel. Signor, porgete. Considerando che la nominata Ninetta Villabella è rea convinta di domestico furto, a pieni voti ed a tenor delle vigenti leggi, il regio tribunale la condanna alla pena capitale. Sangue mio. risparmiate. D'un innocente vittima che non si sa scolpar, ma il sangue risparmiate d'un innocente vittima che non si sa, si sa scolpar, ma il sangue risparmiate d'un innocente, innocente vittima che non si sa. La sentenza è pronunciata, l'ore sarà pronunciata. Alocca, alocca, l'ora d'altra c'è, e l'altro sul patito. Son fuori. signor tanto senza sapesta subire, so del petto di fronte del signor tanto senza sapesta subire, ma mi you saprò correggere i miei trasporti, gli antichi torti riparerò. Saprò correggere i trasporti, gli antichi torti riparerò. Thank you. Yeah. Sempre con te sarà. Oh, padre, oh, sì. suo carcer liberato, per un ordine firmato dal monarca mio signore. Tutti s'aggiunti al vino,